giorni come mesi, presi, pesi, avanti vai, poi te ne accorgi, è già oggi, coraggio, pensavo peggio, sinceramente va tutto meglio, miglio dopo miglio, ma io chi sono e che dico, mica t'ero io più amico, non capisco più quel che dico, discorsi tesi, ehi ma dico, per chi mi hai preso, lame coltelli, mamma che dai, che fai, lo sai chi sono e lo so meglio io, se non lo sapessi direi che ti disinteressi, e messi come siamo, e sì che bene ci volevamo, e di noi che ricordo rimarrà, io non ti scordo, forse neanche demordo sul fondo del bicchiere in queste sere c'era un'immagine, un fragile margine che a me girava in testa, triste la scommessa perché persa come te persa, ora resta you come to see, defend you, non you, who are you, different think or mind, or wide up in my mind, I'm the dark knight or white knight, I don't know but the moon on me, give me strength, give me forces in these days. Also, I'm obsessed, I'm stressed, no one would be believed. Torno sempre io, me stesso, e di fisso mica m'ammazzo, l'ho promesso del resto, quindi resto forte fuori me stesso e cresco. Non ti piaccio, cazzo frega, io resto mega, per te mica si prega, porca vacca, per chi ci regga, raga, mira alta e testa bassa, flow dopo flow come Joe, io do connessioni, no contestazioni, zero condizioni, con te fuori, ora non c'hai azioni, missioni di nuova scuola e la vecchia resta una stretta cerchia, una nuova macchia, marca ferite aperte, io punto ad altre vette, una nuova scena, mi pranzo e cena, un giorno si brinderà di XU, 2 anni, ora son pronto, se mi credevi finto, ora sai quel che valgo, i tuoi figli studieranno me a scuola come massimo esempio di poetica.